Il Salone di Milano per me nell'arredamento rappresenta il meglio di quello che c'è al mondo, è il meglio come immagine, come imprenditori, come voglia di rischiare, di fare delle cose diverse. Nel mio lavoro cerco di fare assieme all'imprenditore un segno molto italiano, no, non avrebbe senso cercare di fare un prodotto tedesco, dunque è un prodotto modaiolo, un prodotto che ha un contenuto tecnico versatile al prezzo giusto, come viene percepito, insomma, questa creatività che qui non si trova in altro punto del mondo, insomma. Nell'Italia è proprio nel DNA che c'è questa creatività, questa voglia di sperimentare e di stupire. Questo, insomma, lo pensa anche lei? Sì, assolutamente. Qui io riesco a fare delle cose, lo stavo dicendo ieri, che altrove non mi rischierei da fare, ma è un commitment che si fa in due. L'azienda, io l'azienda, è una fiducia che si va creando nel successo piano piano che si fa nei vari esperimenti di progetti, eccetera. Si prende più coraggio, indietro ci sono rischi formali, investimenti che si fanno sia per me come studio, sia per l'azienda come attrezzature, innovazione, eccetera, e si va a scoprire mondi ancora non conosciuti, sia formalmente che tecnicamente, insomma. Quindi lavorare con le aziende italiane, insomma, è diverso da lavorare in altre parti del mondo. Assolutamente, io per me il fattore rischio, diciamo questa irrazionalità che non è descritta, diciamo, all'interno di un libretto bocconiano, e questa magia la trovo solo qui, per fare degli oggetti. Poi magari per fare delle altre cose la potrei trovare altrove, anche con un cinese o un taiwanese, ma magari lì faccio più un prodotto verso un mercato più ampio e meno sensibile a una cultura profonda, insomma. Tra l'altro, una delle caratteristiche del suo lavoro è proprio quella di differenziare tanto, insomma, disegnare, progettare cose molto diverse tra di loro. Questo è uno stimolo continuo. Sì, c'è comunque un fil rouge tra tutti questi progetti. Per esempio, per me lavorare con slide è una nuova avventura. Con questa avventura vuol dire fare una collezione di oggetti che hanno un obiettivo preciso. Nel mercato sono dei mobili dove ci bisogna sederci sopra. La plastica si presta a essere utilizzata all'esterno, però la nostra avventura, con la qualità di superficie, eccetera, la vogliamo portare anche all'interno. Vogliamo portare il comfort, vorremmo portare la luce. Sono tutte ambizioni che abbiamo, magari lo facciamo in modo maldestro all'inizio, però sicuramente se lo facciamo bene arriveremo a fare qualcosa che nessun altro fa al mondo. Ed è quello che mi interessa come nuova avventura Slide, insomma. Lasciare un segno. Come nasce questa interazione con Slide? Ma l'azienda la conoscevo, ci siamo parlati, ci siamo piaciuti, ci proviamo e vediamo. È un mercato che subisce ovviamente la crisi degli ultimi anni. Per chi progetta, per chi disegna, questa ha un effetto di stimolo o un effetto magari, diciamo, depressivo, deprimente? Ma guardi, io uno dei sport che mi piaceva molto quando ero giovane era il surf, e a fare del surf vuol dire stare in fondo all'acqua, al mare e aspettare l'onda giusta. A me le onde non fanno paura, anzi più sono grosse meglio è quando si fa surf. Vuol dire, loro prima mi dicevano che hanno una crescita del 30%, non ho mai avuto così tanto lavoro di quanto ne ho adesso. Mi sento un po' un medico che cura i malati, però più che altro che trova delle soluzioni su dei problemi. Mi sembra che il mercato si sta cambiando, ci sono dei problemi distributivi notevoli, non ci sono più i margini che c'erano una volta sui prodotti convenzionali. Rigenerare del margine, ci sono dei clienti che vengono da me chiedendomi: io questa è la mia azienda, questo è il prodotto che faccio, come faccio a trovare del margine? Ci si mette assieme e alla fine ci si trova la soluzione. È per quello che, tornando al discorso Italia, questo mi piace, perché in Italia si trovano queste soluzioni. Se invece uno non ha niente, non sa fare niente, fa solo l'editore e va a comprare al meglio le cose che fanno altri, allora si fa fatica, perché non ha un savoir-faire suo. Però se c'è una matrice che si è fatta di macchine, di persone, eccetera, si trova nelle pieghe del progetto sempre delle soluzioni.